me un loop di batteria. E fare sempre le stesse cose. Chissà se c'è qualcuno che ci ascolta. O se siamo come due pirla a suonare su una drum machine. Ai ai ai ai. Ai ai. Thank you.